vetri da rompere, muri da battere e tanti fuochi da spegnere. Alzarsi e combattere, meglio bruciare all'inferno, sciogliersi subito e ancora prima di restare solo, meglio precipitar giù che battere le ali a vuoto. Intanto corro che perdo il mio volo. Spari da attendere e via una corsa ad ostacoli, ladroni santi da appendere su forche miracoli. Meglio randaggi ubriachi, restare povero, magari prima che io mangi un hot dog. Spogliarsi umili scevri dell'effimero, anche se nudo mi vergogno un po', confesso. Ma cos'è che libero più dell'aria di questo vento che va? Cos'è quell'albero spaventato nella foresta, chissà? Nodi da sciogliere, sogni da infrangere e troppi buoni propositi per poi non rimpiangere. Meglio sputare il veleno, morderlo io il serpente, che alzo il pensiero mi faccio paura. Occhio, coraggio e sprezzo del pericolo, che col trilama mi taglio la gola. Scansare trappole, file semafori, sguardi truci e rimproveri di orde di barbari. Meglio rischiare e trovarsi al centro di un maremoto, ma col mio panfilo attraccato al molo. Tanto per tutti lo so, verrà il giudizio presto, che ancora un po' di caviale lo spizzico. Già, cos'è più libero di un gabbiano nella tempesta?